face. Bentornati a Rock Legends su Radio RCS, l'onda veronese. Le frequenze le facciamo dire come tradizione ai nostri ospiti. Masold. Allora, sono 98.6 per la bassa veronese e zona della Lessinia e 101.5 per Verona città e rimanente provincia, 91.5 per la zona Lago di Garda e 94.7 per la Val d'Adige. Radio RCS si può ascoltare anche attraverso lo streaming dal nostro sito internet www.radiorcs.it. Dall'Inghilterra hard rock passiamo agli Stati Uniti, dove band più o meno fortunate hanno percorso la via del rock amplificato allo spasimo. Tra le meno note da citare i Cactus, formazione composta dall'ex Vanilla Fudge Tim Bogert e Carmine Appice, dagli ex Mitch Ryder Band e Amboy Dukes, Jim McCarty e Rusty Day, che del disco One Way or Another del 1971 ci hanno fatto ascoltare la title track. Formazione durata pochi anni, ma che aveva dunque e comunque ottime idee. Che ne dite? Beh, per quanto mi riguarda posso dire che noi prendiamo molto più spunto da questo tipo di hard rock e ammetto la mia ignoranza, non li conoscevo e sicuramente mi hanno incitato a ascoltarli ancora in futuro per imparare molto di più. Bene, Reborn è il titolo del vostro disco di esordio. Quale significato avete voluto dare a questa parola? Allora, Reborn praticamente sta a significare che... siete rinati. Volevamo essere un po' rinati da quel che c'era in giro. Praticamente in giro c'era sempre un soffocamento di musica. E volevamo un po' ritirare fuori le cose vecchie che almeno da noi nessuno proponeva. Il 1971 vede anche l'uscita del terzo disco di Mountain dal titolo Nantucket Sleigh Ride. Il super trio formato da Leslie Ware, Felix Pappalardi e Corky Lang con Don't Look Around. Ai padri dello stoner rock moderno, cosa ne dite? Allora, innanzitutto la canzone ci piace e questo è un bene. Poi si sente che, pur essendo del 71, risulta molto moderna e le sonorità sono le classiche sonorità stoner usate anche ai giorni nostri. Vostre influenze musicali, quali sono e quanto sono importanti nella scrittura delle canzoni? Beh, sicuramente lo stoner ci ha influenzato molto. Gruppi come Caius, Fu Manchu, ci hanno dato il groove e la pasta per comporre dei pezzi. Per scrivere le vostre canzoni, insomma, ecco. Poi comunque ascoltiamo anche dell'altro. Bene. Cioè io personalmente ascolto molto blues. Importante, voglio dire. Ci sono vari generi e... una base, insomma, ecco. Di mettere assieme tutto. Chiudiamo allora la seconda parte con i James Gang, prima di confluire che negli Eagles il chitarrista Joe Walsh tirava bordate elettriche in questo trio hard rock che ha tra le canzoni più note questa Walk Away del 1971 del disco Thirds. Poi sarà la volta di sentire sei canzoni tratte dal disco dei Muzzled Reborn. Rimanete in ascolto.